come si fa pubblicità oggi? Ci faccio capire anche come è diversa la pubblicità su internet rispetto alla classica pubblicità che noi siamo abituati ad ascoltare alla radio, vedere alla TV o sulle riviste, che siano quotidiane o magazine. Diciamo la caratteristica più importante della pubblicità su web è che è connaturata al media, cioè mentre sulla televisione e in qualche misura anche sulla stampa l'advertising è qualcosa che è altro dal contenuto e quindi lo si fruisce in maniera, evidentemente questa cosa è molto forte in televisione, no? C'è un'interruzione del contenuto. Per quanto riguarda il web invece è un mezzo che è nato con la pubblicità e quindi integra la pubblicità al suo interno fin dalla sua nascita, cioè quando uno vede delle pagine web assieme al contenuto redazionale o al contenuto generato dagli utenti o quale che esso sia, c'è la pubblicità. Quindi è una modalità diversa di comunicazione che non fa attrito col media stesso. Poi la declinazione di questa ovviamente è diversa da quella degli altri media, nel senso che è l'unico mezzo che permette l'interattività, quindi presuppone il fatto che io, spettatore, fruitore del mezzo, sia anche potenzialmente attore e quindi la pubblicità su internet, come tutti sappiamo, è cliccabile. Questa è la grande differenza. Poi dove questo click porti può portare al sito dell'azienda, può portare a un gioco, può portare a un'altra attività di comunicazione, però è chiaro che diventa un modo di parlare con il potenziale consumatore molto più forte, perché nel momento in cui io riesco a coinvolgerlo non ho dall'altra parte una, come si dice, una catch potato, cioè una persona seduta su un divano in modalità passiva che vede uno spot, ma o qualcuno che è coinvolto attivamente in quello che io gli sto cercando di raccontare.